Io sono Vincenzo, assistente forestale del distretto di Rovereto. Io sono qua per dirvi qualcosa su Rio Cavallo. Su Rio Cavallo. Voi sapete che che Rio Cavallo si può chiamare anche Rosbach, vero? Questo ve l'hanno detto a scuola? Sì. No, io lo sapevo. Ah, tu lo sapevi? Sì. Perché io sono Rosbacher. Ah, e sì. Rosbacher mio papà mi ha raccontato, voleva dire, assistente, no.